GR Sport. Buongiorno da Dario Ricci. Dopo 3 scudetti consecutivi, così le strade dell'Inter e di Roberto Mancini si dividono. Ieri l'incontro tra il tecnico e il patron nerazzurro Massimo Moratti che ha sancito la rottura definitiva. A Radio 24 l'opinione di Sandro Mazzola, grande bandiera interista. Penso che era abbastanza nell'aria, soprattutto penso un po' il comportamento di uno nei confronti dell'altro e viceversa da dopo Liverpool in avanti. Io non me l'aspettavo, però sorpreso direi, appunto, visto l'atteggiamento avuto dai due personaggi negli ultimi mesi, così qualche dubbio l'avevo. Alla fine però pensavo che lo scudetto mettesse a posto tutto. Al posto di Mancini arriverà con un contratto triennale da 9 milioni di euro l'ex tecnico del Chelsea, il portoghese José Mourinho. Sentiamo cosa ne pensa proprio Mazzola. L'impatto secondo me sarà buono perché lui è uno stregone, uno che si sa presentarsi molto bene, e ci sarà da vedere se poi vincerà, perché lui non ha altre strade, non può dire giocheremo bene, no, deve solo vincere e vincere più di Mancini. E di mercato si parla anche nel ritiro azzurro di Coverciano, dove oggi il CT Donadoni comunicherà il nome del giocatore escluso dalla spedizione agli europei, il centrocampista giallorosso aquilani. È un contratto fino al 2010 con la Roma, che comunque sia intendo rispettare, non cerco di andare via tramite clausole o cose che non vanno bene, che non voglio fare per una società che comunque sia mi ha cresciuto e mi ha dato la possibilità di arrivare in nazionale. Leggo così che ci sta qualche cosa, però è ovvio che devo parlare con la società, devo parlare con l'allenatore, devo capire il mio futuro. Buffon invece si preoccupa dei nuovi palloni che verranno utilizzati a Euro 2008. Secondo me per i portieri è molto più difficile intervenire o essere perfetti in un intervento da distanza, diciamo, siderale, che non magari da un tiro ravvicinato. Per il basket sarà Roma-Siena la finale scudetto. Ieri sera in gara 3 della semifinale contro Avellino i capitolini hanno superato gli irpini per 77-70, chiudendo la serie sul 3-0. Il coach di Avellino, Boniccioli, a Sky Sport. Roma è una squadra 3 volte più forte di noi, però onestamente se penso che una tra Siena e Roma, alle quali auguro in egual misura di giocare una grande finale, finirà la stagione senza niente in mano e che noi finiremo la stagione con la Coppa Italia in mano, allora credo che abbiamo fatto veramente qualcosa di formidabile. E ora è il Giro d'Italia. Dopo il giorno di riposo si torna in sella, anche se oggi e domani al Giro non si danneranno certamente l'anima. Oggi la Sondrio-Locarno, domani la Mendrisio-Varese, 2 tappe interlocutorie. Oggi adatta ai velocisti, quella di domani adatta agli attaccanti, non di classifica. Da venerdì si tornerà a fare maledettamente sul serio, tutti contro la maglia rosa Alberto Contador, che guarda tutti dall'alto in basso, ma non ha un vantaggio tale da poter dormire sonni tranquilli. Ricco ha soli 41 secondi, Simone a 1,21, Bruseghin a 2 e Pellizzotto a poco di più, ma anche di Luca Serremencio non si danno per vinti. Oggi però tappa di ricreazione per rientrare in clima gira con una frazione adatta ai velocisti, a quelli che sono restati. Si prospetta una nuova sfida tra Daniele Bennati e Mark Cavendish, le due stelle di questo giro che sono attualmente 3-2 per il velocista retino della Liquigas. Per Augusto Stai, GR24, Sole 24 ore, Sondrio. Chiudiamo col tennis, ancora la pioggia a farla da padrone sulla terra rossa del Roland Garros a Parigi. Tra i pochi match disputati, quello che è costato l'eliminazione ad Andreas Seppi, battuto in 3 set dal croato Ancic. Vi ricordo l'appuntamento con A Tempo di Sport alle 14. Ancora una buona giornata da Dario Ricci.